fatto bene a dirmelo, grazie. Dunque, per quello staccati il telefono, non si sa mai che poi tua madre si arrabbia. Io il numero tuo ce l'ho, ma non è che vado a fare numeri così. Io ti ho detto, ti telefonavo se dovevamo uscire e basta, capito? Ma io non vado a telefonare a nessuno. No, non mi chiamo auto io, che rompo le balle a tutti.